uno bela, uno sobilla, uno sibila, e la bella donna in coma irreversibile, un Euridice irreprensibile, il tu allopatico di un io, padre ufficialmente postulatore di una causa di mortificazione, sempre tace, sparsa sinopia Ermengarda, tace sempre, sparsa sinopia di scapole, la gola secca, la gola ostruita, e dagli all'untore, dagli all'untore, e fame d'aria.